Tu pensa, Nicoletta, vai a casa una sera dal tuo carro e gli dici: questa settimana non ce la faccio a fare la spesa, o entro questo mese la bolletta non ce la faccio, stampa un po' di soldi. Pensa come sarebbe facile risolvere così Sì, i problemi, no? li stamperei io. Ma È direi svenuto. quando bisognerebbe entrare nella testa di Nicoletta. Io mi sono distratto un attimo perché stavo facendo esercizi del pavimento No. pelvico. Claudio, vada, veloce! Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera rosea. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Chissà come lo spenderà questo 1.400.000 euro al mese. Ma che il governo ha stanziato qualche altra risorsa ma per qualcosa? Che Deborah, Veronica Chi? Lario, è questo l'assegnuccio che gli passa Silvietto. E beh, viene da pensare un po' cinicamente che separarsi conviene, ma non tutti i casi sono uguali e non tutti gli assegni sono come quelli della famiglia Berlusconi. È vero, avvocato Gianetto Regassani, presidente dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti? Assolutamente sì, buongiorno. Buongiorno. Nel 90% dei casi le separazioni riguardano persone normalissime. Gli assegni di mantenimento per le mogli, tra l'altro, oggi sono residuali rispetto al passato. Soltanto nel 17% dei casi di separazione e divorzio nel nord ci sono, c'è l'erogazione di assegni di mantenimento, nel sud il 21%, ma si tratta di somme molto molto modeste nella maggior parte dei casi, insomma si aggira intorno ai 430-500 euro di media. Poi ci sono anche le separazioni dei VIP, dove ci sono separazioni, assegni molto molto alti, ma non si arriva mai a 1.400.000. Non ci anticipi tutto. No. 800 24 00 24, comunione o separazione dei beni, assegni di mantenimento, marito che mantiene la moglie bene o male, moglie che mantiene il marito, insomma chiamateci per avere dal nostro avvocato tutte le informazioni che vi servono. Ricordo che tra l'altro è autore dei Perplessi Sposi. Infatti il divorzio non è solo una questione di denari, però Nicoletta tu lo sai bene, anzi è anche e soprattutto una questione di cuore. Ma certo, Deborina, lo dici a me, io lo so bene che sono la donna di cuore, peraltro felicemente sposata. Matrimonio e separazione sono questioni di cuore e di cervello, giusto dottoressa Luini, che è qui in studio con me insieme all'avvocato? Li ho catturati tutte e due, medico e comunicatore scientifico dello IEO. Sì, giustissimo, emozioni, sentimento, razionalità, sia il matrimonio che l'assegno di mantenimento sono questioni di mettere insieme cuore e cervello. 349-238-6666, se non volete chiamarci ma invece volete scriverci, ci sono anche i nostri account Facebook e Twitter per condividere con noi questioni di denari, cuore e cervello che riguardano i vostri matrimoni e purtroppo qualche volta capita, anzi sempre più spesso, le vostre separazioni. E anche noi oggi, Deborah, siamo un po' separate. Ahimè, sì, però non ti ho chiesto nessun assegno di mantenimento. Non ancora. Perché siamo una a Roma, Nicoletta, e l'altra a Milano, io. E poi, insomma, quante volte si divorzia e si consiglia alla persona interessata di andare subito dall'avvocato. E invece a volte, a pensarci bene, il consiglio è quello di andare dal medico e lo scopriremo nella puntata di oggi. Ma adesso, Nicoletta, partiamo! Partiamo! Essere e benessere. Eccoci qua, avvocato Gassani, ancora buongiorno. Abbiamo sentito gli ABBA, ricchissimi, e parliamo di 1.400.000 euro, l'assegno di mantenimento per Veronica Lario. Ma come ci anticipava anche prima nel corso del nostro sommario, quello dei comuni mortali o quantomeno dei comuni divorziati non è così. Qual è, appunto, ce lo ribadisce, avvocato, la cifra media in Italia di un assegno di mantenimento? Ma intorno massimo 450, massimo 500 euro, a seconda anche delle realtà geografiche. È chiaro che nel nord gli assegni sono più alte rispetto al sud, ma comunque si tratta di somme assolutamente basse, non possiamo certamente paragonare all'assegno di Veronica Lario. E voglio anche dire che la giurisprudenza sta in qualche modo modificando quella che era un orientamento stratificato negli anni, cioè l'assegno di mantenimento al coniuge più debole è un fatto proprio residuale, è proprio un fatto quasi eccezionale. Per i figli invece l'assegno di mantenimento è inderogabile. Ma poiché nel nord Italia le donne professionalmente hanno raggiunto livelli altissimi, insomma c'è una buona occupazione rispetto al sud, è evidente che quando c'è una parità di reddito l'assegno di mantenimento sarebbe una cosa senza senso. Certo. Quindi devo dire che i patti prematrimoniali nel nostro paese non sono consentiti, e questo in effetti determina poi che cosa? Che il giudice è vincolato al calcolo dei redditi, e quindi è normale che appunto le persone che hanno redditi medio bassi non è che possono accampare chissà quali diritti. Qualche suggerimento ce lo ha già dato, ma ci dà delle indicazioni più precise a proposito del calcolo di questo assegno di mantenimento? Di quali aspetti si deve tenere conto, oltre chiaramente ai redditi delle due persone interessate a questa separazione? Sì, premetto che purtroppo non c'è un orientamento uniforme nei vari tribunali. Ogni tribunale, l'abbiamo visto anche nella vicenda di Veronica Lario, Milano stabilisce 3 milioni, Monza 1 milione e 4. Evidentemente e poi, probabilmente poi non è neanche finita qua, perché bisognerà vedere qui, se la signora ci sta. Ecco. Non credo, perché penso che sicuramente ritornerà a Milano in appello e forse verrà a Roma qui in Cassazione. Quindi è una causa ancora da giocare, quindi Berlusconi non può cantare vittoria. Altre puntate ci aspettano. Esatto, infatti. Anche perché sono comunque situazioni che generalmente attirano anche gli ascoltatori. Ora il problema, come si calcola un assegno? Fondamentalmente bisogna stabilire se la moglie lavora, se la moglie non lavora, se ci sono mutui da pagare, quanti figli sono stati messi al mondo. Allora, se la moglie lavora, l'assegno di mantenimento che il padre eroverà, quasi sempre l'uomo che paga l'assegno, lo pagherà soltanto per i figli. Allora, diciamo che nell'immaginario collettivo la signora Lario non lavora, ma in realtà, da quello che mi risulta, ha delle società, quindi in realtà delle attività professionali le ha. Secondo me ne hanno tenuto conto anche i giudici, altrimenti l'assegno sarebbe stato anche più alto. Molto più alto. E quindi voglio dire, ci sono varie variabili. Se c'è un figlio unico, l'assegno può arrivare anche al 40% del reddito del padre. Se ci sono due, al massimo si arriva al 60, 55-60. Ovviamente, se parliamo di stipendi di 1.200 euro al mese, un uomo che deve versare questi soldi è un uomo morto. Uomo che va alla Caritas. Altre puntate da fare, Nicoletta, ecco. Queste. E quindi voglio dire, è chiaro che c'è poi un tracollo di vere e proprie famiglie. Insomma, oggi la separazione significa finire per strada, soprattutto per gli uomini, questo lo dobbiamo dire, perché qua c'è anche una sorta di razzismo, nel senso che se sei un operaio, un impiegato, esercitare il diritto di separarsi significa poi dover rinunciare a tanti altri diritti, cioè significa andare a vivere in macchina, significa andare a tornare da mamma, perché ci sono 500.000 uomini che sono tornati a vivere da mamma a 40-50 anni, il che significa un vero e proprio fallimento umano e sociale. E questo è il motivo per cui, per la verità, molto spesso si sceglie di convivere e di non sposarsi. Allora mi rivolgo agli ascoltatori: se state vivendo questo passaggio difficile della vostra vita, oltre alle difficoltà emotive, siete alle prese anche vostro malgrado con il costo economico della separazione, diteci quali sono le informazioni di cui avete bisogno, perché il nostro avvocato sarà a nostra e vostra disposizione da qui fino alle 12.30 per aiutarvi. 800 24 00 24. Divorziare però conviene in un certo senso, ma solo a chi è nelle condizioni e nelle possibilità di chiedere superalimenti. Ma il divorzio, Deborina, è e rimane, anche se tu sei una donna di denari. Sono anche un po' una donna di cuori, dai. Brava. Perché divorziare è veramente una svolta, è sempre dolorosa, ci sono sempre delle ferite, la vita cambia, le ricerche parlano di un forte stress, Debora, e si tratta di un evento destabilizzante, perché porta con sé, se noi ci pensiamo, tutta una serie di stress concatenati. Si temono sempre gli effetti sui figli, no? Dei separati, invece anche sui diretti interessati. Qualche volta appunto le ripercussioni, credo, immagino, sono molto, molto importanti e molto forti. Allora, sulle delle ripercussioni del divorzio e della separazione per chi si separa sulla salute, vogliamo parlare oggi qua con noi la dottoressa Luini. Dottoressa Luini, è uno degli eventi più stressanti il divorzio, perché può lasciare ferite profonde che si rimarginano ma ci rendono comunque diversi. Sì, è equiparabile a un lutto, è considerato un lutto il divorzio, quindi con tutte le implicazioni che possiamo immaginare. Quali sono, qual è il meccanismo che i ricercatori hanno studiato per valutare l'impatto che un divorzio, un evento così destabilizzante, ha sulla nostra salute? Sì, noi dobbiamo considerare che esistono due tipi di stress. Uno è lo stress positivo, che ha quindi un certo grado di intensità e che ci stimola a vivere di più e meglio, che è implicato, poi ne parleremo se ci sarà tempo, nella longevità. C'è un altro genere di stress che è uno stress molto profondo, uno stress traumatico, uno stress che appunto viene definito lutto, che mette insieme ormoni, reazioni emotive, cambiamenti di vita anche, cambiamenti del quotidiano, e questo genere di stress invece sembra abbreviare la longevità, sembra abbreviare la vita, perché crea problemi anche fisici. Quindi ci sono dei veri e propri malanni da sì. separazione e da divorzio? Sì, sono malanni anche organici, nel senso che non si tratta solo di stress psichico, che già è una cosa importante di per sé. Si tratta proprio di un insieme di malattie che possono arrivare, disturbi, malattie più o meno gravi, che minano il fisico e quindi riducono la sopravvivenza, soprattutto nell'uomo. Dottoressa Luini, i ricercatori si sono anche concentrati nel studiare le ricadute sul sistema immunitario. Sì. Questo forte stress, questo dispiacere, ci si separa anche magari per affrontare una vita migliore, perché magari sì. la convivenza, dottore sì, avvocato, spero. Lei me lo può confermare, non andava avanti, però insomma il peso rimane e il sistema immunitario in qualche modo deve reagire sì. e anche lui paga le conseguenze, insomma, si ingobbisce sì. un po'. Si ingobbisce un po', qualche volta riduce la propria efficacia, quindi non ci difende dalle malattie, qualche volta invece si rivolge contro noi stessi, quindi funziona di più ma funziona male, come se sparasse su di noi. E in linea con noi abbiamo anche il piacere di avere il nostro dottor Carlo Gargiulo. Buongiorno dottor Gargiulo. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a voi, come va? Io bene? Noi stiamo bene, per adesso Deborah, siamo... Deborah tutto bene? Tutto bene, tutto bene, non abbiamo separazioni in vista, siamo solo oggi temporaneamente separate io e Nicoletta. Ma ti manco Deborah? Tantissimo. Tantissimo, mi sento un po' spaesata in questo studio vuoto. Va bene, dottor Gargiulo, ma è vero che c'è anche, possiamo chiamare, c'è l'ormone del divorzio? Insomma, l'ormone del divorzio proprio no, però effettivamente è l'ormone dello stress. In realtà il divorzio vuol dire stress, stress vuol dire aumento delle catecolamine, un nome difficile per indicare due ormoni, adrenalina e noradrenalina, che servono a sostenerci nei momenti difficili. Se il divorzio è vissuto, la separazione in genere, quindi la fine di un amore è vissuta come evento traumatico, è chiaro che dobbiamo reagire a questo evento traumatico. Vengono fatte delle classifiche dello stress, ahimè tocca dire che il divorzio non è fra i primi posti, perché abbiamo i primi posti sicuramente sempre i soldi, l'economia generale, il problema del lavoro. Quindi non è altissimo come classifica, ma è importante perché, come diceva giustamente la collega prima di me, incide proprio sul nostro essere, sulla nostra vita e sulla nostra predisposizione alle malattie. Aumenta quella che definiamo la morbidità, quindi gli uomini soprattutto si ammalano più facilmente. Anche lì c'è una distinzione, disturbi dell'apparato gastroenterico, disturbi dell'apparato respiratorio e forse legati anche proprio al cambiamento di stile di vita. L'avvocato ci parlava di situazioni economicamente difficili e quindi situazioni dove probabilmente non ci si nutre a sufficienza, non ci si nutre bene e tutto il nostro organismo ne risente. Insomma, è un evento che se vissuto in questo modo così traumatico, certo non con i prezzi e con le cifre che abbiamo sentito prima, ma vissuto in modo traumatico, può essere devastante nella vita di una persona. Allora, sì, Nicoletta, riprendo un attimo le redini io per leggerti, se vuoi, un paio di messaggi di alcuni ascoltatori. C'è chi ci scrive, sì, va bene, parlare di mantenimento, il fatto che lo facciano due donne, mi vengono i brividi, c'è un po' di pregiudizio nei nostri confronti. Chiaramente molti ci sollevano appunto la questione degli aspetti economici, che adesso affronteremo anche con l'avvocato Gassani. Sentiamo subito Alberto da Milano. Nicoletta, o hai altre domande per i tuoi medici? No, sentiamo pure Alberto e poi Benissimo. Salutiamo il dottor Carlo Gargiulo. Benissimo, Alberto, buongiorno. Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie mille Alberto. Io avrei due domande, una capitò a me 25 anni fa, adesso ne ho 50, ma la prima moglie, comprammo una casa insieme, dopo, quando c'era fare il trasloco, circa 2 settimane dopo, mi disse che voleva separarsi, quindi mi sono ritrovato ovviamente in grande difficoltà, costi, avvocati, mutui, tutto sulle mie spalle, lei non lavorava, e io mi chiedo, ma non è che è una sorta di truffa in tutto ciò? Questa era una. È stato truffato da una persona, Alberto, che evidentemente non conosceva bene, però detto questo, oggi è felicemente sposato di nuovo? Convivo con figli, ma edito, ovviamente vedo quel mondo come gli occhi e penso che il matrimonio, ahimè, cioè non sarà un sindaco adesso dirmi che sto felicemente unito a una donna. Certo. Ma, in altre situazioni la domanda che volevo fare Bravo. Era diamo subito la domanda intorno a me dove il reddito dell'uomo era pari a zero, perché era un benestante zero benestante, anche la donna purtroppo, dato che il giudice faceva somme e divisioni di redditi, si trovava in grandissime difficoltà, perché un vero benestante non è anche un assegno di mansione, non ha un reddito sì. di fatto, quindi non c'è qualche cosa da legiferare in materia. Avvocato Gassani lo sa bene che ogni tanto qualche proposta per la verità la lancia. Che cosa manca alla legislazione per essere più equa in queste situazioni, avvocato? Ma cosa manca? In effetti ci vorrebbe una riforma globale del diritto di famiglia e anche poi, secondo me, dovremmo ricercare un'uniformità dei criteri di calcolo dell'assegno di mantenimento, perché il problema grosso che secondo me va a toccare la certezza del diritto è il fatto che ogni tribunale adotta un proprio criterio. Ora, sulla questione degli assegni di mantenimento, ne ho parlato prima, i giudici sono molto attenti. Non è più come una volta, quando alla donna veniva garantito l'assegno a prescindere per il solo fatto di essere donna. Devo anche dire che i magistrati donna sono quelli più severi nei confronti dei loro simili. Non è vero che c'è una partigianeria, e questo lo devo dire sinceramente, perché altrimenti significa offendere anche la professionalità di tanti magistrati. Sono proprio loro che hanno cambiato le cose, hanno capito che si stava consumando una tragedia nazionale, quella di uomini giovani, trentenni, magari lasciati dalle mogli o che avevano preso questa decisione, che erano finiti sul lastrico. Quindi devo dire che la giurisprudenza lentamente sta cambiando, ma sta cambiando anche la dignità della donna, perché oggi le donne sono sempre meno propense a chiedere l'assegno come se fosse un'elemosina, un po' come succede in Francia, in Inghilterra e in altri paesi, in cui l'assegno di mantenimento raramente viene chiesto se non ci sono stati patti prematrimoniali. C'è un recupero della dignità della donna. Bene. Noi ci lasciamo, ognuno per la sua strada, ovviamente mantieni i figli, e questo è un altro discorso. Nicoletta, ascolti. Ti lascio adesso la parola, ma devo leggerti questa mail su Facebook di un'ascoltatrice che si chiama Patrizia e ci dice: sono divorziata, l'avvocato Gassani era l'avvocato del mio ex marito, la separazione è davvero un episodio doloroso, ma non solleva questioni economiche, quindi evidentemente, avvocato, lei ha fatto il suo dovere. Bravo, avvocato. Tutto qua. Prima di salutare il dottor Carlo Gargiulo, volevo, prendendo spunto da un SM di un ascoltatore, chiedere come, se il divorzio impatta così sulla salute delle persone, come il medico di famiglia può aiutare a prevenire o individuare eventuali disturbi, campanelli d'allarme, che forse la persona così preoccupata di gestire il malessere del cuore non riesce a individuare. Si può fare una sorta di prevenzione? Sì, sicuramente si può fare. Intanto la parola medico di famiglia sta benissimo, perché spesso noi riusciamo anche a far riconciliare, a ricombinare un po' le situazioni, cercare di parlare con i due componenti, la coppia, separatamente, cercare di riportarli magari a un momento di malessere transitorio e fargli capire l'importanza di quanto stiano bene insieme e quanto sia importante anche per i figli. A volte questo non riesce, e allora bisogna vedere quale dei due elementi è il più fragile e lavorare su di lui, magari con un aiuto psicologico, quindi cercando di indirizzarlo bene, ma soprattutto curandone la parte di salute vera e propria, e quindi aumentando quelli che sono i controlli periodici, le analisi del sangue, controllando anche la sua alimentazione. Basta vederlo più volte a studio per capire se si nutre in maniera adeguata, se ha superato in maniera adeguata questo momento così traumatico. Allora, possiamo chiedere anche al nostro avvocato Gassani, Nicoletta, se prevenire è meglio che curare, anche in termini appunto legali. Avvocato Gassani, so che non esiste la possibilità di fare accordi prematrimoniali in Italia, ma esiste l'istituto della separazione dei beni. Non è un accordo prematrimoniale, non è un modo per fare prevenzione economica? Beh, assolutamente sì. In effetti c'è anche un'ipocrisia di fondo, legislatore italiano. In effetti noi non consentiamo i patti prematrimoniali su magari la distribuzione dei mobili quando finirà il matrimonio, però poi andiamo a consentire, prima della celebrazione del matrimonio, la separazione dei beni, che è una cosa molto importante, molto incidente poi negli equilibri economici. Pensate che nei paesi dove sono consentiti i patti prematrimoniali, per poter fare la separazione dei beni ci vuole lo psicologo, ci vogliono gli avvocati che devono spiegare perfettamente in che cosa consiste. In Italia basta mettere una crocetta quando ti vai a sposare. Sì. E cambia completamente l'equilibrio economico. Devo dire che tra l'altro poi gli italiani nel 75% dei casi optano per la separazione dei beni. Evidentemente c'è già una sfiducia di fondo iniziale quando ci si sposa, c'è una riserva mentale, perché quando fu introdotta la comunione dei beni, tutti pensavano che tutto sommato gli italiani avrebbero scelto la comunione, invece no, è stata bocciata alla grande. Deborah, sì. Io vorrei anche coinvolgere gli ascoltatori a proposito di coppia, di salute, di malessere, sì. su questo stimolo. Ci sono delle coppie che scoppiano non di salute ma per una malattia, mm-hmm. una malattia del coniuge che porta l'altro ad allontanarsi, preso dalla paura, dal senso di inadeguatezza. Ci sono delle coppie che proprio si separano. La dottoressa Luini ha delle storie da raccontare. Ma se voi avete delle situazioni, se state vivendo una situazione critica, se vedete che la vostra salute e il vostro benessere sono stati messi in crisi da una separazione, da un divorzio, volete avere delle domande, avete delle domande, volete dei consigli e soprattutto se volete raccontarci la vostra esperienza. Se la vostra coppia è scoppiata non di salute ma per una malattia, vi invitiamo a chiamarci, a scriverci, a contattarci per un confronto diretto insieme ai nostri ospiti. Cuore e denari. Io voglio il divorzio. No, ma che divorzio? Ma cosa dici? Neanche per sogno. Non sai quanto ci ho riflettuto. Io proprio non voglio più essere sposata con te. Ma perché mai vuoi divorziare? Insomma, ti ho fatto qualcosa? O non ti ho fatto qualcosa? Non riesco a specificare i motivi, Oliver. Beh, provaci! Non ci voglio provare! Allora, se vi siete separati, intanto buongiorno da Nicoletta Carbone e da Deborah Rosciani. Siamo separate oggi, io a Roma, ma sempre vicine. E Deborah a Milano, ma siamo sempre vicine. Parliamo di separazione, soprattutto parliamo di divorzio, assegni, salute. Se voi vi siete separati, se avete notato che la vostra salute è cambiata, non è un'impressione, ce l'hanno spiegato i nostri esperti, chiamateci e raccontateci come vi sentite per rispondere alle questioni di cuore ma soprattutto a quelle del cervello. Qua in studio con me a Roma la dottoressa Luini. Dottoressa Luini. Sì, buongiorno. Rispondiamo alle questioni di cervello che sono sempre però collegate al cuore, perché il matrimonio, abbiamo detto, è questione di cuore e di cervello. Deborah, ci sono coppie che si separano anche, l'abbiamo anticipato, per la malattia del partner. Ci sono delle storie che raccontano bene questa paura che invade spesso chi deve accompagnare un malato, una paura che a volte fa scoppiare la coppia. È vero, sono delle situazioni appunto molto, molto delicate. Non so se la dottoressa Luini era pronta a commentare queste storie. Sì, sì, sì. Sì, è molto vero che la malattia destabilizza il matrimonio, può unire, perché può unire, ma può anche creare grossi problemi perché non ci si capisce più e non si riesce più a trovare un modo per rimanere insieme in modo positivo. La malattia può essere un grosso motivo di separazione, molto doloroso. Ecco, questo ci permette di dire, noi vogliamo sempre prevenire prima di curare, certo. Se state attraversando un momento delicato per la vostra salute, fatevi aiutare, parlate col vostro partner e se questo non, se la comunicazione diventa difficile perché ci sono timori, paure, preoccupazioni, fatevi aiutare da una terza persona. Dottoressa Luini, possiamo lanciare questo messaggio? Sì. Nei momenti di difficoltà non bisogna dimostrare di essere forti a tutti i costi, bisogna, ed è un gesto di grande forza, dimostrare di avere bisogno e ci si fa aiutare. Sì, sì, assolutamente, anche perché in momenti, per esempio, di malattia, come dicevamo, c'è la perdita delle normali basi comunicative. Cioè, io voglio una cosa, mi aspetto che il partner mi dica quella cosa, il partner invece me ne dice un'altra, ma perché nella sua sensibilità è l'altra cosa a essere importante. Questo destabilizza completamente. Anche l'avvocato voleva intervenire. Tra l'altro, oggi c'è l'aumento dei divorzi della terza età. Quindi immaginiamo quando ci si separa, divorzi a 70-80 anni, quindi credo che queste patologie potrebbero essere ancora più incidenti. E bisogna anche ricostruire tutta la vita economica della coppia, avvocato, per stabilire, esatto, in quel caso l'assegno di mantenimento. Sì, infatti consideriamo, ripeto, che nelle grandi città noi troviamo nei tribunali tantissime coppie appunto che si separano o divorziano alla soglia delle nozze d'oro, quindi dopo 40-50 anni di matrimonio, quindi c'è anche questa deriva che va considerata anche dai medici probabilmente, perché diventa una tragedia a 70-80 anni divorziare. Nicoletta, volevo reintrodurre solo per un attimo, se mi permetti, la questione di chi stacca l'assegno di mantenimento, perché chiaramente nella tradizione che noi conosciamo è sempre più frequentemente l'uomo. a farlo. Invece in tempi recenti, grazie anche ad una giurisprudenza appunto che si è formata, formata anche da donne giudici, come ci diceva prima l'avvocato Gassani, sono sempre invece più numerose le donne che staccano l'assegno di mantenimento perché sono più emancipate. C'è un'ascoltatrice che non è d'accordo su questo aspetto e direi di sentirla subito, è Barbara da Trento. Barbara, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, mi sentite? La sentiamo molto bene, grazie. Benissimo. Allora, prima di tutto bravissime. Seconda cosa, io volevo soltanto brevemente spezzare una lancia a favore delle donne, perché ho molte amiche che sono separate e che, a dispetto di quello che si dice degli uomini poverini che restano sul lastrico, sono loro che con tanta dignità, tanta fatica, tanto lavoro vanno avanti battagliando con dei mariti che, se va bene, si tengono i figli un paio di volte al mese, ma neanche tanto, tanto che loro comunque devono usare babysitter e affidarsi ad aiuti esterni. E per quanto riguarda i soldi è meglio sorvolare, perché le vedo che a un certo punto rinunciano perché a forza di chiedere l'elemosina si stancano. E quindi è vero che ci sono dei casi nuovi, povertà, però sicuramente le donne sono ancora come una vecchia storia, la parte debole in tanti casi, solo che magari si sono stancate, lavorano e tacciono e basta. Grazie Barbara. Nicoletta, cosa dicono i tuoi ospiti di Roma? Sentiamo il cuore e il cervello, la legge e la salute. Avvocato. No, io l'ho detto prima, molte donne rinunciano all'assegno, altre no, altre sono veramente particolarmente agguerrite, ma non credo che si possa generalizzare. Insomma, i momenti difficili, le piaghe sociali coinvolgono l'intera famiglia, uomini e donne. Io non ne farei una battaglia di genere, altrimenti poi credo che diventi poi difficile trovare un punto d'incontro. Ma personalmente detesto le battaglie di genere. Quando mi sono separata la prima volta, io sono al secondo matrimonio, ho rinunciato all'assegno da subito perché non ritenevo di averne bisogno, per fortuna, grazie al mio lavoro. Non credo che sia una battaglia di genere, credo che ci siano persone che devono ragionare e usare il cuore, esatto. Altrimenti niente. Invece per quanto riguarda le differenze di genere, ci sono negli effetti che il divorzio o il matrimonio produce riguardo molto. Anche alla longevità, quindi pensateci, perché ci sono delle reazioni differenti riguardo agli anni di vita, oltre che alla qualità di questi anni di vita. Deborina? Sì, cosa vorrei alludere? Che io, se non mi sposo come ho intenzione di fare, peraltro camperò fino a 150 anni, poi mi devi sopportare ancora per un bel po' di trasmissioni. Questo lo chiederemo alla dottoressa Luini, perché oggi con Deborah abbiamo detto non parliamo solamente della salute e del malessere dei divorziati e dei separati, avvocato, dico bene, ci sono anche i single e anche loro potranno avere dei consigli per continuare la loro singlitudine, si dice così, felicemente. Però io alla Deborina la voglio far sposare. Sì, speriamo di trovare questo benedetto principe azzurro. Però ti dico anche, Nicoletta, che in realtà in alcuni casi, paradossalmente, per essere proprio asciutti e un po' anche non ironici ma sarcastici su questo argomento, conviene rimanere singole e magari, non sto scherzando, separarsi per finta. Purtroppo questo capita molto più spesso e c'è un'analisi molto interessante che è stata curata dalla associazione ACRI di Brescia, la sede provinciale, e noi chiediamo che cosa è stato scoperto a Roberto Rossini, che è il presidente di questa organizzazione bresciana. Buongiorno presidente. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Voi avete pubblicato questo decalogo un po' provocatorio, perché evidentemente come ACRI invece l'Istituto della Famiglia ci credete profondamente. Insomma, non sposatevi, non vi conviene. Come siete arrivati a questa conclusione? È proprio con lo stesso meccanismo che ha suggerito lei. Siamo tutti sposati, crediamo molto nel matrimonio, nel valore della famiglia, una cosa cui riteniamo decisiva e importante, però il nostro CAF ci ha segnalato, così come il nostro patronato. Sono i centri di assistenza fiscale, i CAF, così per dirlo agli ascoltatori che non lo sanno. Esatto. E i nostri patronati ci hanno suggerito, così mentre stavamo facendo qualche analisi, che c'erano degli utenti che chiedevano come si faceva a divorziare, ma semplicemente perché per ragioni fiscali sembrava più opportuno. E allora abbiamo cominciato un po' per scherzo, un po' più seriamente, a dire ma facciamo una provocazione seria a tutti e soprattutto ai nostri parlamentari, dicendogli guardate che in Italia forse sposarsi non conviene, perché ci sono una serie di svantaggi fiscali Ce ne dica due o tre, Presidente Rossini, così almeno facciamo capire anche agli ascoltatori di quale situazione stiamo parlando, perché magari potrà apparire effettivamente forse un po' estremo il suggerimento che viene da voi, che è sicuramente provocatorio, appunto. Per esempio, un motivo fiscale per non sposarsi qual è? Quello da cui siamo partiti riguarda l'indicatore LISEE, ecco, che analizza il reddito, il patrimonio immobiliare di una famiglia e che ci dà un po' l'indicazione del suo stato economico. Chiaramente l'ISEE è fondato su l'istituto familiare, per cui io cumulo tutti i redditi, indico i codici fiscali, cumulo tutti i redditi e magari questo è alto e non posso andare alla graduatoria appunto per l'asilo nido. Se invece due coniugi si separano, l'ISEE tracolla immediatamente? Sì, perché io in realtà sono io, immagino, ragazzo padre con due figli, fine, voglio dire, questo è il mio ISEE, quindi sono l'unico percettore di reddito. Se poi dopo io in casa mia ospito anche un'altra persona, vabbè, sono fatti miei, ma non cumulano i redditi. Quindi... Certo, grazie al Presidente Rossini. Una bella provocazione. Infatti. Direi intanto proprio di sì. Deborah, posso leggere qualche messaggio? Accidenti, sì. Max da Corbetta ci scrive: è la coscienza che sposa le persone, la legge italiana ne complica l'esistenza. Avvocato, lei è d'accordo? Ma d'accordo, sono d'accordo fino a un certo punto. La legge italiana secondo me è superata quando c'è la fase patologica nel matrimonio, quando si arriva in tribunale, ma la legge non c'entra niente poi con quella che è la normale vita coniugale. Io credo che I perplessi sposi, il mio libro, parli soprattutto di quelle persone incoscienti che si sposano semplicemente perché l'orologio biologico ha detto che bisogna fare presto, perché bisogna fare contenti i genitori, perché si vive in piccoli centri. Il matrimonio è una cosa seria. Il matrimonio non è una scommessa, tanto poi c'è l'avvocato tal dei tali che mi aiuterà. Il problema è che il 30% delle separazioni avviene dopo un anno dalla celebrazione del matrimonio. Questo è il vero problema. Non ci sono più corsi prematrimoniali seri, probabilmente ci si sposa come se fosse un normale passo di vita, e in alcune zone addirittura il matrimonio è semplicemente la grande abbuffata della cerimonia. Si spendono tantissime somme, ma alla fine non c'è consapevolezza. Chi paga sono i figli. In realtà sposarsi è una cosa seria, ma sposarsi allunga la vita. Cuore e denari. Fosca, allungati 7-8 centimetri il passo perché non si allunissono col mio. Ma il vestito è stretto. Ti prego, fai qualcosa. Io, Jessica, prendo te Ivano come mio. Ma che te se l'è già mia? Attenzione. Io, Ivano, prendo te, Jessica, come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della vita mia. Fantastico, viaggi di nozze, Nicoletta. Anche a te è capitato qualcosa del genere mentre percorrevi il corridoio? Guarda, dovrei aprire un libretto, ma alla prossima puntata invece ti voglio dire che abbiamo un pretendente, Deborah. Va bene, dobbiamo proprio letto? Dirlo. Sì, ho letto, sono Claudio, Deborah, sono pronta a dire sì. E niente, dovrò... No, un attimo, avvocato. Pronti? Ecco, chiediamo a questo Claudio di perché no? Una proposta di matrimonio. Però che devo cosa... chiederò all'avvocato Gassani di accompagnarmi in questo incontro, così almeno possiamo stabilire subito patti chiari e amicizia lunga. Bravo. Vengo anch'io però, vado a vedere. Ecco, quindi noi facciamo veramente un interrogatorio a Claudio. Ma io, sarà che perché sono sposata da tanti anni, io sono contenta quando le persone mi dicono mi sposo, sono innamorata, vado a vivere insieme, ed è contenta anche la ricerca, la sentiamo? Sì, arriva. Arriva. Il matrimonio allunga la vita? Pare proprio di sì. Secondo quanto emerso da uno studio condotto da Helene Ziegler della Duke University Medical Center, pare proprio che pronunciare il fatidico sì possa allungare la vita dei fortunati sposi. La ricerca sarebbe stata condotta su un campione di 4.800 persone di ogni età per un diverso numero di anni ed avrebbe fatto emergere questo importante dato. In barba a chi sostiene che il matrimonio sia la tomba dell'amore, pare che le persone sposate, siano esse di sesso maschile o femminile, godrebbero di un sostegno fisico e psicologico maggiore rispetto a quelle non sposate oppure divorziate, il che farebbe molto bene alla loro salute. A 800 24 00 24, se siete d'accordo con questa lettura raccontatecelo appunto in diretta, Nicoletta. E soprattutto superate anche oggi la nostra barriera rosa. Valeria mi sta guardando dalla regia un po' stupito, ma esatto, non sa di che cosa stiamo parlando, ma in dovete, realtà dovete superare questa barriera fino all'ultimo secondo, quindi dovete giocarvela con la nostra rosa al centralino che ci sta seguendo insieme alle altre colleghe. Dottoressa Luini, insomma, qua il matrimonio allunga la vita. Allunga la vita, sì sì. Quando ho curato Longevità, il libro di Umberto Veronesi uscito per Bollati, ho scoperto che la riduzione delle calorie, l'esercizio fisico, la creatività allungano la vita, ma anche il matrimonio. Questo vale per donne e uomini, vale un po' di più per gli uomini. E in caso di divorzio invece ci sono, dicevamo, delle differenze. È interessante perché a quanto pare in caso di divorzio l'uomo che non si risposa ha una vita più breve. E invece la donna che non si risposa ma se la cava lo stesso. Infatti gli uomini si risposano quasi sempre. Appunto. Si riaccasano subito, mentre le donne magari si prendono un momento di pausa. L'uomo dopo sei mesi dalla separazione già comincia... Ma perché non siete capaci di stirarvi le camicie, per cui per forza dovete trovare chi ve lo fa. Parliamoci chiaro. Io ho un'altra invece lettura. Secondo me, dato che ormai ce ne sono più pochi... Quelli vengono qualunque infatti noi siamo in esubero, alla fine anche qualunque uomo poi ha il suo piccolo mercato. Vengono ripescati anche uomini... No, ma devo dire che ci sono proprio non delle particolarmente vere... interessanti. Sì, ci sono delle fatte turchine, voglio dire, donne che ti salvano uomini dalla fine. Le eterne croce rossine. Sì, insomma. Donne che salvano uomini che hanno perso tutto e che sono rimessi un'altra volta nella vita di tutti i giorni. Quindi per fortuna che ci sono queste opportunità. Debora, sì, no, questa tendenza, croce rossina, con un bel divorziato. Mi capita, ma mi stufo anche abbastanza rapidamente, insomma. Sì, il mio spirito croce rossina proprio. È una marchigiana dalla coscia lunga. Irma, ecco. Buongiorno da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Irma. Allora, cosa ci racconta? Irma, no, ci sente? Racconto, sì. Anzitutto volevo salutare l'avvocato Gassani, che conosco e ringrazio per la sua battaglia. Grazie. E, il mio caso cercherò di raccontarlo brevemente perché sentendovi... Abbiamo pochi secondi, vada Irma. Sì, sta venendo fuori che è un film... Comunque, mi sono sposata, mi sono separata, sono finita per strada e non ho assegno di mantenimento. E dopo, comunque, alla fine è venuto fuori che il mio ex marito è una persona molto benestante, scappata dall'Italia per paura del fisco. Io che cosa mi dovrei aspettare della legge italiana? Se lui è scappato, avvocato Gassani, temo che sarà difficile riacciuffarlo. Sarà molto difficile, a meno che non abbia beni nel nostro paese. Aggredibili in Italia. Si possono aggredire per avere una garanzia, ma insomma, quando vanno via di solito hanno già tolto via. Però ecco, anche Irma si deve armare di santa pazienza, ingaggiare una battaglia. Se il marito scappa, è andato. Io lo lascerei andare, Irma, ecco, guardi, mamma, io ecco, sono di quella stoffa là, lasciarli andare, tanti saluti. Meglio. Nicoletta, sì. Andiamo ad Alberto dalla provincia di Verona, abbiamo ancora tempo? Un uomo finalmente, sì, perché sì. Non mi ricordo se ci hanno già chiamato nella prima parte del programma. Alberto, buongiorno. Eccolo qua. A voi. Buongiorno. Intanto vi ringrazio moltissimo per la compagnia che mi tenete, perché io lavoro in auto tutto il giorno, diciamo perlomeno fino alle 2 del pomeriggio e mi siete molto utili grazie, su tante Alberto. Cose. Ecco, e allora io forse avendo sentito l'ultima illustrazione della dottoressa, forse rientro in quella categoria. Io sono stato sposato con la stessa persona per 29 anni, al limite dei 30 di matrimonio mi sono separato, però vivo con un'altra persona ed è per questo dico che probabilmente il mio stato di salute è notevolmente migliorato, sono migliorati i miei esami ematologici, praticamente mi è passata l'ernia iatale, avevo riflusso notturno, bruciori di stomaco e anche lo stato sonno veglia è molto migliorato. Alberto, ma era sposato con la strega cattiva di Biancaneve? Dai, Debora! Ma no! C'è stato un periodo che appunto per problemi alla suocera, la moglie andava praticamente il fine settimana da lei ed è uno dei motivi per cui mi ha portato... Un'altra bella trasmissione da fare. Alberto, adesso sta meglio, cosa vorrebbe fare? Io, se ci riesco, vorrei risposarmi con la persona con la quale convivo ora. Ah, vabbè, se lei è contento e ci crede in questo istituto, Nicoletta, perché Alberto, no? Alberto, ci invita? Beh, se fa la lista nozze, ce lo dica. Se potessi magari anche privatamente parlare con l'avvocato in seguito. Sì, Nicoletta, mi stanno sbracciando qua dalla regia. Qua, ritorniamo fra 5 minuti, a tra poco. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, ancora buongiorno da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carbone, che tra un po' sentiremo. Stiamo parlando di separazioni e divorzi, quanto costano. Abbiamo preso spunto una notizia di cronaca, cioè la separazione che già conoscevamo di Silvio Berlusconi da Veronica Lario, e l'assegno di mantenimento che il signor Berlusconi deve riconoscere alla ex consorte. Stiamo parlando dell'impatto anche emotivo della separazione, quanto incide sulla salute un divorzio. Abbiamo sentito che l'impatto è molto molto forte in molti casi. 800 24 00 24, da ora in avanti avete a disposizione i nostri esperti per raccontarci i vostri casi. Sono l'avvocato Ettore Gassani e la dottoressa Giovanna Luini. E allora ecco il saluto da una single incallita, Nicoletta, e da una donna felicemente sposata. Mi senti? Certo che mi sento. Perché siamo separate oggi, io a Milano e Nicoletta da Roma, e sentiamo allora la prossima parte del nostro programma. Salva Danaio. Si ripresenta a qualunque ora della notte senza dire quando o perché o dove è stato negli ultimi 3 mesi. E lo sa che cosa fa? Si mette a riordinare gli armadietti. Rifà i letti, passa l'aspirapolvere in tutta casa, conosce qualcun altro che lo fa. È anormale, ok? È un comportamento anormale. Oh certo, come no. Cambiare numero di telefono senza dirlo a tuo marito invece è normale. Se io non esisto per te, tu non esisti per me. Ok, d'accordo, ora so quello che provi almeno. No, ora so io quello che provi tu. Insomma, le motivazioni per cui ci si separa sono tante, Nicoletta, non sono sempre solo legate a questioni economiche. Assolutamente no, Deborah, e tra l'altro noi in studio chiacchieravamo, noi che siamo qua a Roma tutti e tre. Mi avete abbandonato e vi chiederò un cospicuo assegno per questo. E sai cosa mi ha detto cosa proprio il nostro avvocato? Insomma, l'abbiamo portato a dire che tutto nasce dal fatto che gli uomini non corteggiano più. Avvocato, qui dovremmo aprire. L'ho tirato un po' per i capelli. Dovrei aprire io una conferenza stampa su questo, ma lascerò stare. Avvocato, che ne pensa? Ma sono d'accordo. Fondamentalmente, gli uomini italiani non sono più i mandrilli di una volta. Oggi, con Facebook, con questi social network, ci si siede dietro una tastiera e si sta ore e ore a chattare invece di cercare la donna dei propri sogni. Prima, insomma, quando eravamo ragazzi, il pensiero fisso è la donna, insomma, era una cosa più bella corteggiarla, seguirla, e poi sapere sono notizie. Oggi ormai c'è un disimpegno totale, insomma. E ci sono anche molte donne che a loro volta corteggiano e qualche volta ci sono invertiti i ruoli. Purtroppo, dico, perché non è proprio intanto granché. Deborah, ne abbiamo già trovato un altro, Mida, ma lui si allarga. E se cominciassimo con conoscersi vabbè, e poi una sala convivenza. Senti guarda, vabbè, che all'8 00 24 00 24 ci sono gran belle storie da raccontare. Dai, e allora commentare. Cominciamo con Da chi ci aspetta da un po', direi che possiamo sentire Giovanni da Lodi. Giovanni, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Buongiorno. Dunque, praticamente io e mia moglie siamo amici di una coppia che praticamente è esattamente l'opposto di quello che era la famiglia tradizionale, diciamo 50 anni fa. Praticamente chi diciamo fornisce la totalità chi porta i pantaloni in casa è la moglie. Esatto. Siccome adesso diciamo ci sono dei segnali che ci fanno presagire che questa coppia scoppia. Esatto. E qual è il voglio dire lo scenario che ci possiamo aspettare dal punto di vista Giovanni, siamo sicuri che stiamo parlando di amici? No, ma come sono maliziosa, sono maliziosa. No, ci sono già passato, io, va bene. E allora che allora possiamo fare? Che potrà succedere? Allora, intanto, chi si ammalerà in questa coppia? Magari possiamo chiedere alla dottoressa Luini. Questo non lo so. Diciamo che però quando c'è una crisi di identità, cioè non si sa chi sia l'uomo, chi sia la donna, anche nelle funzioni, diciamo, matrimoniali, e diciamolo, per esempio, nel rapporto sessuale, perché va detto, stiamo parlando di matrimonio, può crearsi la crisi. Quindi non so chi si ammalerà, forse il più a rischio è l'uomo, ma chi lo sa. L'avvocato Gassani che ne pensa invece? Qua chi sborserà l'assegno l'abbiamo già capito più o meno. Ma io penso che prima di andare all'avvocato bisogna tentare di salvare il matrimonio. Psicoterapia di coppia assolutamente, come terapia d'urto, perché credo che prima di arrivare alle carte bollate bisogna pensarci molto bene, perché è una tragedia separarsi. Nicoletta, chi sentiamo adesso? Io vorrei sentire Angela Maria, che ci chiama da Milano. Ottimo. Angela, Angela Maria, buongiorno a lei. Buongiorno. Sposata, separata, in attesa di matrimonio? Separata, divorziata e sono 77enne. Brava Angela, vede? La ricerca la dice giusta. Sì, io dico la verità, sono un po' contraria alla teoria che qui è solo viva meno, perché noi eravamo 4-5 coppie ai tempi in cui eravamo appunto tutti sposati, e devo dire che è sopravvissuto chi è solo, chi è rimasto solo. Ma femmina o maschio? Femmina. Già che c'è un, ecco, c'è sì. un detto sì. in piemontese sì. che dice quan caloms fatera la donna la vembela. Non ce ne ho uno marchigiano, mannaggia. Sì. Quando l'uomo muore, diventa terra, la donna si ripiglia. Ma non, non è sempre così. Non è sempre così, ma è abbastanza, abbastanza così, dottoressa Luini. Beh, è vero che le donne sono più longeve degli uomini a priori. E poi c'è proprio la legge della vedova, no? La vedova di solito non si sa come mai, ma rinasce. Eccolo qua. Sentiamo anche Alberto Dalodi, che probabilmente conferma anche le tesi di Angela Maria. Alberto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei fare innanzitutto un saluto speciale a Nicoletta, perché ci conosciamo personalmente, essendo uno degli alti e bassi. Alberto, fantastico. Peccato che non abbiamo subito un pezzettino. Sarebbe qua abbiamo trovato magnifico. Il motivo della separazione. Chi è Alberto, che io non conosco e tu conosci invece, Nicoletta? No, Alberto, rimaniamo così, che così Deborah si ingelosisce. Velone di Ma Alberto degli alti e bassi, ve lo voglio far conoscere. Ottimo, grazie. A Essere Benessere l'hanno conosciuto, quindi è un'amicizia proprio alla luce del sole, direi. Il marito non è geloso, come il marito non è geloso, ma eccolo qui, ritornerà a trovarci. Alberto. Sì, io chiamo perché ho acceso la radio quando parlavate della statistica secondo cui i matrimoni allungano la vita, allungherebbero la vita. Ecco, e ho fatto una considerazione già da un po' di tempo che sposa questa notizia, nel senso che io nella mia cerchia di amici e conoscenti, quindi i miei coetanei, io ho 47 anni, tre di loro, sento una cosa in sottofondo che conosco. Visto che sorpresa, anche se lei mi disconosceva, io le ho fatto una sorpresa da Milano, visto? Insomma, tre di questi miei amici, ripeto, miei coetanei, quindi sotto i 50, due di loro hanno già avuto un bel infartino e un altro prende la pastiglietta tutti i giorni per la pressione. E sono tre incalliti e convinti single. Cosa dobbiamo concludere con questo? Perché la donna è terapeutica, perché chi è innamorato fa più moto, mangia meglio, si cura di più, fuma meno. Fumare. Dottoressa Luina, questi miei amici fanno parecchio moto e non fumano. Allora devono sposarsi. Non c'è niente da fare, la cura è lì. Allora, avvocato Gastani, posso chiederle, Alberto. Grazie Nicoletta che hai salutato tu, il nostro alto e basso. No, volevo chiedere, in realtà poi c'è tanta discussione intorno alla durata del processo di separazione fino ad arrivare appunto al divorzio, ma davvero in Italia si è così lunghi anche nella conclusione, nella perfezionamento appunto di questo atto? Sì, diciamo che i tempi della giustizia italiana, soprattutto per la famiglia, sono imbarazzanti. Noi dobbiamo in Italia fare prima la separazione e poi il divorzio, due distinti processi, con due distinte parcelle, con tempi biblici che se non si riesce a trovare un accordo possono durare anche 15 anni. Quindi considerate che negli altri paesi la separazione o è stata abrogata o è facoltativa. Molte volte si arriva direttamente al divorzio, in 3 mesi è tutto fatto. Nel nostro paese questo per adesso è ancora improponibile, si parla di divorzio breve, ma ridurrebbe i tempi, ma non il principio sbagliato secondo cui lo Stato impone ai propri consociati dover riflettere. Sono francamente una cosa aberrante. Io voglio separarmi, voglio divorziare, lo Stato non deve interferire nella mia vita privata. In Italia succede così. Allora, che cosa sta succedendo? Che la gente va a divorziare all'estero, il turismo divorzile. Eccolo praticamente là. È facilissimo, si va all'estero, si prende una casa, si chiede la residenza, dopo 6 mesi già si può avviare la pratica. Ci sono agenzie romene che con 3.500 euro tutto compreso pagano avvocato, viaggio, andata e ritorno, alloggio, le spese di traduzione della sentenza, torni in Italia, depositi la sentenza all'ufficio ed è valida anche per l'ordinamento italiano, assolutamente valido, tutto regolare. Questo significa che dopo il turismo procreativo, perché la gente va a fare figli all'estero, adesso c'è il turismo divorzino. Insomma, gli italiani per esercitare i propri diritti vanno all'estero. Come, come per i dentisti, Nicoletta. In Ungheria. Nicoletta, che ne dici? Chissà che se abbiamo dato qualche ideuzza con questo. Un consiglio. Questo è uno smacco per noi italiani. È una cosa molto umiliante. Noi siamo stati la culla del diritto mondiale, ma ci vogliamo rendere conto che non è possibile che per dire sì ci vogliono 2 secondi e per dire no ci vogliono 15 anni. E guardi, questa sua osservazione la fanno in molti ascoltatori, tra l'altro, identicamente a come l'ha fatta lei. Che ci stanno ancora scrivendo e noi siamo molto felici. Al 349-238-6666 e io andrei a salutare Ugo, perché Ugo ci chiama da Torino, che è la mia città. Buongiorno Ugo, ho fatto una preferenza smaccata. Ugo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah. Tra l'altro Nicoletta mi conosce anche come Gnomo Aspirino. Allora, vi conosco, vedi? No, se per questo anch'io lo conoscevo, però insomma lui oggi ha voluto far finta di niente. Va bene, allora, chiusa Ugo. Parentesi. Sì, io ci tenevo molto a raccontarvi la mia esperienza, che voglio sottolineare essere la nostra esperienza, la mia e di mia moglie. Premetto solo una cosa che per me è fondamentale: io sono contrario all'accanimento terapeutico della coppia, quindi due persone se non vanno più d'accordo e arrivano a certi limiti, sono assolutamente d'accordo che si separino. Qual è la mia esperienza? Qual è la nostra esperienza? Voi avete prima parlato che la coppia può andare in crisi dovuto anche alla malattia di uno dei due coniugi, però può anche andare in crisi per una disabilità dei figli. Certo. Questo è quello che è successo a me e mia moglie. Il nostro figlio ha la sindrome di Asperger. Noi abbiamo avuto, molto probabilmente è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, abbiamo avuto, come è giusto che sia, esseri umani, uomo e donna, marito, moglie, padre e madre, due visioni diverse di affrontare la disabilità di nostro figlio, che ci ha mandato in tilt. Ci ha mandato in tilt e siamo stati separati 3 anni, io vivevo da una parte, lei viveva dall'altra, io ho avuto le mie storie, lei ha avuto le sue. Però cosa è successo in questi 3 anni che ci ha permesso di ritrovarci? Wilber stesso dice, no, Maslow stesso diceva la scala dei nostri bisogni, no? Quindi siamo andati ad appagare quei bisogni che molto probabilmente mandavano in crisi la nostra coppia. Quindi abbiamo fatto 2 percorsi di crescita evolutiva separati, quindi da single, da persone singole. Io ho iniziato un percorso di counseling e lei ha iniziato una sua psicoterapia personale, quindi ci ha portato questo percorso a crescere proprio come persone singole. Questo ci ha portato, con dinamiche che adesso non mi dilungo a raccontarvi, a ritrovarci dopo 3 anni più innamorati che mai, persone completamente nuove, con una modalità che poi è lo Gnomo Aspirino, però con una modalità unica che ci ha permesso di affrontare la disabilità di nostro figlio in modo costruttivo. Ecco, io questa è la mia esperienza e ci tenevo a dirvela. Grazie, grazie Ugo. Ugo, una bellissima esperienza. Testimonianza, sì. Vero? Vedevo che l'avvocato la seguiva con grande interesse. Sì, sì. No, è una testimonianza molto importante questa. È vero che molte volte i figli scoppiano la coppia. Certo. E soprattutto quando hanno patologie, ne abbiamo parlato molto spesso di questo, e bisogna avere anche la voglia di recuperare, però, insomma, come ha fatto il signore. Allora, chi sentiamo adesso? Sì, scusami. Forse la dottoressa Luini, perché certo, voleva intervenire per... Sì, mi ha fatto pensare per esempio a quelle coppie che o hanno appunto una disabilità o malattia del figlio o della figlia, oppure affrontano, nel mio quotidiano conosco tante persone con tumore al seno, sono senologa. Certo. Il tumore al seno è un elemento di destabilizzazione della coppia, qualche volta il percorso separato dei due coniugi, che favoriamo per esempio allo IEO con percorsi di psicoterapia individuale o di coppia, può portare poi a ritrovarsi. Non è detto che accada, però si va avanti, si evolve separati e magari non ci si aspetta che accada, si ritorna insieme. Deborina. Sì, eccomi qua. Allora, testimonianze davvero anche dal punto di vista medico molto, molto significative. Direi di ritornare però alla dura realtà delle questioni economiche con la storia di Giuseppe da Belluno all'800240024. Gli ascoltatori, dico, avete ancora qualche minuto di tempo per interagire con noi, chiedere suggerimenti e consigli ai nostri esperti. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno Deborah, complimenti, lei è sempre molto gentile, molto grazie. Affabile. Ecco, visto allora. Nicoletta, che anch'io ho i miei amici qua. Giuseppe l'ho pagato io, eh? Giuseppe, ci racconti. Ascolti, allora io intanto sono un gran promotore del matrimonio. Bravo. Perché dico sempre anche ai miei amici, sposatevi piuttosto, almeno anche mettere in discussione la coppia, costruire qualcosa insieme più che una sfida. Però poi... chiaramente tutto casca quando prendono gli esempi di qualcuno che si è separato, la moglie è rimasta in casa sua con l'amante, non hanno figli e praticamente invece che fare quello che è mio, quello che è tuo, quello che è mio e quello che è tuo è anche tuo. È anche mio, ah, ecco. ecco, sì. E allora, quindi Giuseppe, poi, vada subito al caso pratico, sì, perché i minuti allora, qua ci scorrono. Il caso pratico era questo, sentendo prima il vostro interlocutore che parlava dei divorzi fittizi, allora io e mia moglie abbiamo acquistato una casa vecchia, sì, con due appartamenti, chiaramente uno è intestato a me e uno è intestato a lei, quindi per lei è la prima casa. Certo. Allora stiamo entrambi pagando il mutuo. E chiaramente allora l'anno scorso mia moglie ha dovuto pagare più di 600 euro per un appartamento vecchio che non usa perché abitiamo sopra, però risulta sua seconda casa. Quindi Giuseppe, avete anche voi la tentazione di fare la separazione fasulla? Allora, se arrivasse al punto che cominciamo a parlare di 2, 3, 4, 5 mila euro all'anno di IMU per la casa di mia moglie, sarebbe tentato. Sarei molto, molto, molto tentato. Giuseppe, grazie anche a lei per la sua testimonianza. Avvocato Gassani, come possiamo scoraggiarlo da questa sua intenzione? Beh, insomma, secondo me dovrebbe cambiare un po' il sistema anche fiscale, perché la gente ricorre alla separazione simulata, il 7% delle separazioni lo sono, perché così riesce a ottenere degli sgravi fiscali notevoli sulle spese universitarie, sul ticket sanitario, sulle tasse di registro. Io credo che dobbiamo rivedere un po' la legge, però bisogna anche sanzionare pesantemente le persone che fanno queste cose, perché io credo che sia una cosa gravissima separarsi per finta, per eludere il fisco. Insomma, non possiamo accettarlo come fatto ineluttabile. Bisogna risolvere due problemi. Il primo, un sistema fiscale migliore, e il secondo, sanzionare le persone che ci stanno marciando su questo. Nicoletta, dovremmo farci promotrici di questa campagna, che dici? Ne abbiamo tante? Mi piacerebbe molto, e voglio leggerti anche un messaggio, lo stai leggendo anche tu, da Miki, che ci scrive da Bergamo. Per fortuna siamo poveri, avremmo potuto separarci 5 volte, invece ci siamo sempre ritrovati. Sì, posso dirti che se anch'io ho un'esperienza di amicizie, di persone che erano sull'orlo della separazione, devo dire che la componente economica è stato il deterrente ad andare avanti. Avvocato. Sì, è vero, molte volte essere tra virgolette poveri significa anche andare avanti, ma devo dire anche che molte volte sono i soldi che spaccano tutto. Le peggiori liti giudiziarie, le peggiori guerre si fanno per soldi, non si bada a spese e si arriva a tutto. Molte volte le persone che non hanno molto da dividere si amano di più, hanno meno tentazioni. Essere troppo ricchi è un fatto negativo. Avvocato, due cuori e una capanna, io dico sempre due cuori e due capanne, dottoressa Luisa. Però c'è l'IMU sulla seconda casa, direi che anche lì bisogna fare attenzione. Nicoletta, siamo sulla via della conclusione anche oggi. Bella puntata, anche se distanti, però insomma. Certo, ma io domani torno. Dopo domani torno. Perché anche qua. Esatto. Allora, purtroppo non siamo perché Valerio Rocchetti, che è in regia alla parte tecnica, mi ha detto: Nico, fermati. Va bene, non ho mai sentito tutta questa insistenza in Carmelo Lauricella, che invece è qua a Milano, ma lo porteremo su questa strada. Grazie anche, faccio io da Milano i saluti all'avvocato Gassani e alla dottoressa Luini. Grazie a Marco Lombardo e a Laura Vanossi, che come sempre, se non ci fossero loro, non so io e Nicoletta cosa potremmo fare della nostra vita. Alla Barriera Rosa e a tutte le ragazze del centralino. Nicoletta, a domani allora. A domani. Grazie a tutti da Cuore e Denari, buona giornata. Cuore e Denari.